figurati tu. Bene, bene, sono contento, è vero che sei bello a dirlo. Vai già. Ehi, calma, mi sei arrivata gente, mi devo lasciare, dai. Se ne riesco a ripetere un po', sennò un abbraccio a tutti. Anche tu, Claudio, specialmente, saluta la famiglia. Ok, riprendi, Cla. Fra, un abbraccio anche a voi. Saluto mia mamma, a tutti. A Carletto, già ci sentiamo con calma. Vai già, cosa stavi dicendo? Ciao, ciao, sei alla dubbia, Fra. Ehi, capo, è arrivata gente. Ah, ok, dai, ci sentiamo, Fra. Grazie per il questo. Adesso stavo dicendo come si chiama la birra di Yusuf con la verde, quella che piace a Tonetto. Ciao, Franco. Quella che piace a me? Sì, quella che mi chiede un cascio. Accascio un cazzo. In chilusa bevo io, ma... è la migliore che c'è. L'altra fa schifo. Quella di Yusuf fa schifo, la verità. Non serve a niente. Serve solo a Andregatti e basta e... è per fare casino, quindi mi bevo due in chinusa e basta, non sto facendo altro. Ma prima la bevevi quella di Rossi, perché me lo ricordo io, le dicevi che andavi a prenderla. Beh certo, non pigliavo 18, non ho capito come è fatto. Poi ti trovo a dire una volta, c'era secca, con la gascia di la birra, con un caso d'estate, e ti avevo dato un passaggio in macchina, non so se te lo ricordo. E appunto per questo sto dicendo, ne pigliavo 18 alla volta ne pigliavo a me. Adesso Gian Piero ormai no, di quella non ne beve più, quindi adesso si fuma le sigarette, prendo quelle e poi si beve un inchinusa, uno o due inchinusa e tranquillo. Ma adesso si è ripreso, cammina e tu? No, camminare no. Lascia perdere. Si è ripreso nel senso del fegato e cose del genere, si è rimesso a posto e tranquillo. Lavorato per molto, grazie a Dio, sono passati 8 anni, anche di più. Vabbè, pazienza, interessante, ci sia qualcuno che pensi a lui. No, c'è a posto Gian Piero, grazie a Dio, già ragiona bene, poi esce con la... quella specie di macchinetta con joystick, si fa le passeggiate, la mattina va in piazzetta, si beve un paio di birre di chinusa e poi si piglia le sigarette e si ritorna a casa. E a me l'indipendente, ecco, quella macchinetta lì. Scusate, che io chiudo che mi riposo un po'. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Alessio e ciao Tore. State bene e buon proseguo. Ciao ciao. Ciao Tony, ciao. Grazie per il consiglio, dai. A mal di schiena. Sei un po' sacco. Facciamo libero, domani sono di nuovo articolo. Domani si continua. Vabbè. Interessante è quello. Pigliati un antidolorifico. Avanti a chi spetta. Ciao Tony, stavi bene. Ciao ciao Tony, riposati. Ciao Tony, pigliati uno stabilizzatore e c'è a posto per l'ascensore, com'è? Almeno sei tranquillo. E tu mi trovi come se ho, ciao a tutti. Ehi, appunto. Facissimo, una scienza. Ehi, Carlo, lo si è sentito stasera? Ah? Ho detto Carlo, lo si è sentito stasera? No, a verità no. E ha detto che andava, boh, dove c'è avuto da fare, dai. Oh, signore mio. Ciao, riprendi. Le riprendo, senti alle 8:10, fra un po' andiamo a vederci al TG e poi a Papai. Ancora sono così, Gianni, ancora sono così. Vabbè. Passerà, intanto vado nel salone, ritrovo molto nel salone, sotto la TV. Vabbè, mi dispiace tantissimo, grazie. Però adesso devo stare tranquillo, anche perché il motto che abbiamo preso è tanto, soprattutto per mia figlia, ma anche per me, mia moglie. E vabbè. Ilaria non è altri, cani. Chi? Ilaria non è altri. No, già, questo era il suo. L'ha lasciato qua, che stava ci porta il volcano a quattro anni. Ma ci compara la casa in campagna proprio Balugani. A Sagrado, sono qua 5 anni ad aprire, faccio, quindi. Vabbè, non so qua. Durano troppo poco, per quello che danno durano troppo poco. Ogni tanto ne vedo uno su internet che ha il coraggio di fotografarli morti e a me mi fa scendere le lacrime solo a vedere gli altri, figura. Sì, lo so, vabbè, no, lui già era lì, perché è un dog inglese, ma lui essendo un fuori Italia più grosso, eccetera, in Italia ma veterinario mi aveva sempre detto che qualche anno in più durava, ma dai 10 ai 13 è durato, faceva 14 anni ad agosto, figurati. Figurati, vabbè, però se non avesse preso questo tumore, Filippo stava bene. Filippo ha preso questo tumore ad agosto dell'anno scorso. E lo stavamo curando tutto, curato abbastanza bene, spese centinaia di euro di Arusaga durante il veterinario. Però poi ha iniziato a cappeggiare, gli ha preso gli arti, capito? Gli ha preso gli arti di dietro, quindi non rimaneva sì, molto molto basso dietro, non riusciva a stare più in piedi bene, però con la cura ogni settimana faceva una puntura di cortisone e stava andando avanti, mangiava tranquillo, però ultimamente ha peggiorato tantissimo. L'ultima vista veterinario mi ha detto aspettiamo, se vedi che peggiora portamelo. Ieri l'ho portato perché il cane non si muoveva più, respirava male, l'ha ricoverato praticamente dalle 5 sino alle 7 e un quarto, 7 e 20 è morto. C'aveva la febbre attaccata, ma non ce l'ha fatta. È morto solo qui? Nel sonno è morto così, si è addormentato, ha chiuso gli occhi, non ha sofferto niente, non è per veterinario. Poverino. E dove ce l'aveva il tumore? Alla prostata, uno, e alla due, e l'altro ce l'aveva alle articolazioni, alle ossa. E invece quello della mia amica ce l'aveva nell'ano, proprio nell'ano, l'hanno operato, fatto, non c'è stato nulla da fare. Ma la colpa è la mia, la colpa è la nostra, la mia e mia figlia, perché il veterinario ci diceva di farla accoppiare e noi non l'abbiamo mai fatta accoppiare. Praticamente Filippo non si è mai accoppiato con nessuno, capito? Quindi i testicoli non venivano eccitati, non... E quindi mi ha fiammato la prostata, c'era un testicolo che sembrava una palla e l'altro vuoto. È come le femmine, se non si fanno almeno una cucciolata di vedere il tumore alle mammelle, mi dicono sempre di fargli fare almeno una cucciolata. Infatti è così. Però te lo ripeto, lo stavamo curando, ha avuto un'emorragia, un giorno mi sono spaventato, mi sono svegliato, c'era la cuccia completamente piena di sangue. L'ho portato subito al veterinario, le ha bloccato l'emorragia e si è ripreso, la verità. Nonostante avesse questo tumore, mangiava, faceva i bisogni da solo, ultimamente non ce la faceva più, faceva la pipì addosso, la cacca non riusciva mai a uscire fuori, come mangiava ma la faceva dentro casa. E quindi da lì abbiamo capito che il cane stava andando, capito? Ieri ci ho provato, ci ho portato alle 5, ho ricoverato, alle 7, infatti mi ha detto non lo so, proviamoci, facciamo una febbre, vediamo se si riprende. Invece è spirato lì, nel lettino. Ma è brutto, già, una cosa così brutta, cazzo, ti muoio al cane così davanti. Ha chiuso gli occhi, ha fatto un sospiro, ha chiuso gli occhi ed è morto. E puoi immaginare cosa è successo. A me il gatto mi è morto in braccio, aveva 19 anni, mi è morto in braccio, perché tu già l'hai conosciuto il mio gatto a te. E glielo grido. Era bello, tutti erano un bel gatto. Tu tutti mi hanno contato, non c'è che mi hanno preparato la una sorella di quello che ci sta alle morte di Rando. Il cane dei gatti più belli che io ho visto sono il tuo e quello di Nello Mangattia. Buon'anima, giro, sono bestione. Sembrava un cane vestito da gatto, ma grande, grande, peloso, era rossiccio, ma cantiere amaro, non te ne dava confidenza. Ma neanche Titi ti dava confidenza. No, Titi era un gatto da guardia. Una volta ho detto a un amico mio, occhio che il gatto, se non ti conosce, se come ha aperto la porta in cucina, ha fatto... Adesso ma che ci vuole, non è un gatto. Certo, non era grosso, no, io ero visto sopra il frigorifero, da quello c'era il frigorifero e c'era la cosa sua sopra, e ora il pesatore mi sono avvicinato, ho fatto ma era coccolone, con noi era coccolone, a me mi è morto in bacio, il veterinario mi ha detto stava male, l'ho portato al veterinario, mi ha fatto spendere 80 euro sapendo che tanto non durava, mi ha fatto buttare 80 euro, mi ha fatto il flebo, mi ha fatto riportare a casa, lo riporta a casa e ha svuotato tutto quello che ne aveva messo con il flebo e non ha pisciato, si è pisciato addosso, l'ho preso in braccio e mi ha detto di dargli gli omogenizzati, ho preso il cucchiaino per dargli l'omogenizzato, come lo messo in bocca ha fatto due tossite e c'è rimasto. Più o meno come il mio. Vabbè, ma loro ci tentano Gianni, loro ci tentano, già l'ho detto l'altra volta, ma cosa facciamo? No, gli ho detto, no, assolutamente, proviamo, faccia di tutto per tenere in piedi, ed è rimasto, l'ultima vista l'aveva fatta a settembre, da settembre a oggi era anche abbastanza tranquillo, solo che una settimana a questa parte ha peggiorato, non riusciva più a coricarsi, non respirava, stava mangiando poco, beveva moltissimo, sempre bevendo, e poi si faceva la pipì addosso. E vabbè, pazienza, adesso me ne sto tranquillo e sereno, mi domani devo andare da lui a ritirare le cose, il cornino, così muore il corniccio. Vabbè, purtroppo, le ceneri non le danno, vabbè. Sì, c'ho tutto, se lo vedo, chissà di fare più bagaglio, non è vero e proprio, c'ho tutto. La pecca c'è tutto, adesso me la metterò in cameretta per lavorare l'aria. No, pensavo che allora c'è il cimitero dei cani dove li seppelliscono anche, li fanno anche la lapide, certi. E lì dove ti ho detto io. Certi li fanno la lapide, vanno a trovarli, eccetera, come c'è Aurelia, un'amica mia che gli è morto il cane va a trovarli. Sì, anche lì puoi andare. Ho fatto due, però non c'è niente in questo, sono delle scatole zingate, capito? Dove lo mettono dentro, avvolto ad uno, ad un coso, poi la chiudono e lo mettono sotto, no? Come fanno un funerale normale, però per terra, perché dentro il lucro, capito? Però io gli ho fatto fare la stessa cosa, ma l'ho fatto cremare, mi sono portato via le ceneri. Perché alcuni chiedono le ceneri, alcuni le seppelliscono, comunque io quando ho detto l'amica mia ho detto l'ho portato insieme ai suoi amichetti, e dove le pensavo in qualche parco, qualche cosa. No, dice mi è morto, ho portato la presa adrenalica e il figlio, e poi ha portato lì al cimitero dei cani. Sì, lì c'è il cimitero del cane, l'inceneritore, è tutto di Andrea quello, è tutto di Andrea, quel terreno era del padre, se ti ricordi, no? Era il padre a metterlo alle macchine, come si dice, le macchine accidentate, ti ricordi chi era? Il padre era quello della Croce Verde. E a voi che me lo ricordo, ma è morto. Sì, lui si chiamava Andrea lo stesso, e ha preso la stessa cosa del padre. C'era l'ambulanza veterinaria, con il veterinario a bordo per fare gli interventi, c'era due recuperi, due jeep fuori strada per recuperare i cani quando muoiono in campagna, che non si può entrare con la macchina, eccetera. E ne ha di roba, e guadagna una barca di soldi. A me mi è costato 380 euro. Perché 380? Perché è la visita del veterinario. 150 per il coso, per lui, per portarlo via, e a 350 gli preso per il funerale. Se tu chiami Andrea, vieni a casa tua a prendere il cane, no, a casa di chiunque, a prendere il cane che è morto a casa tua, 150 euro, ok? E non deve superare i 20 kg il cane, non deve superare i 20 kg. Il mio è abbedioso oramai. L'ultima peso che aveva fatto era 24, mi pare, 24 e qualcosa, quasi 25, a settembre, quindi stava benino, perché era 30, quindi aveva già perso 6 kg. Adesso ultimamente era 16 kg pesava, 17 kg, maiata, che era un bel macro, ho capito. Quindi le tariffe sono quelle, 150 euro se non supera i 20 kg, nell'arco dei 10 km, adesso mi ricordo, ok, a casa tua. Se muore dal veterinario, lui è convenzionato con il veterinario di Sassari, va a ritirare al veterinario 150 euro per portarlo via e 150 per le ceneri e per sotterrarlo. Grazie. 300 più tanto la visita, la disperazione, però l'ho fatto volentieri. Non me ne frega un cazzo, l'ho fatto volentieri. Per carità. E ci vuoi fare? E vabbè, e tu ci ha portato lei? Sì, l'ho portato alle 7:15. Si stava lamentando che voleva scendere e infatti doveva fare la popò. E niente, l'ho portato prima. Ma gli hai fatto un bene. Quanto sono già le 8, 19:58. Andiamo a vedere come ti esitore, ma tu tutte nativi a sono? Noi stavamo parlando e ci siamo dimenticati. Dove? Io sono qua. Ciò scarica dalla parte dell'antenna. Deve essere che ho passo contatto. Sento ta. Speriamo un pochettino di controllare questa storia, dov'è? Ma non cazzo. Dopo domani più che altro. Vediamo un po'. Cioè se vuoi che faccio contatto nelle gaffe. Sarà appena queste qui, che ripete troppo Antonio. Vabbè. Se te lo scarichi, ta. Non mi fido, cioè adesso non mi fido di salire su, adesso vediamo un pochettino appena passa questo casino, salgo sopra, smonto tutto e vediamo un pochettino cosa cazzo c'è a vedere. Ma pensi che sia l'antenna? Sì, è sentato l'antenna, perché sento scariche leggere, hai capito, come muove il coso, lo stilo centrale, eventualmente c'è qualche falso contatto nella carica, c'è. Sì, magari, dai, va. Avanti, tu, ci sei. No, a casa mia quando è entrato, insomma non avevi ricevuto niente, me lo ricordo già dalla tantenna, quindi deve essere roba di massa, hai capito? Giù, via che pulisco il palo, con gli metto due gaffe nuove e li aggancio. Aspetta, che arrivo subito. Ehi, andate tu via da quei settori, dove ci devo prendere a passire, dato per un quarto lui ce ne prende sempre. E lui è questo che va via, quindi a un certo punto va a nanna e a mangiare. E vabbè, io fra poco vado a vedermi a Samina. Ah, vabbè, quindi non è un problema per quello là. A me mi ha chiamato Giovanna, cioè non Giovanna, mio nipote poco fa era a casa, figurati tu, dopodiché a un certo punto dice zio vieni, vedo ciò che sono chiuso dentro l'ascensore, mi ha detto eccetera. Ah, io ma stai scherzando? No. Come è successo anche a me. E quindi allora sono sceso giù e sono riuscito a scendere l'ascensore giù e a pedire la porta. Evidentemente c'è questione di pressione di olio. Vuole visto, vuole controllato, perché se ti succede la sera tardi di notte quando non vieni su, cosa fai? Vabbè, cosa faccio? Dove ti dico, come l'altra volta, ti compro la birra, un po' di panini, mangio lì e aspetto che arrivi il maltentore. Sì, ma se non puoi uscire dall'ascensore come ti fai un po' la birra? Non ci ho pensato, vero? Vediamo un po' se è rimasto qualcuno, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Sono tutti a cena, sono già le 8. Siamo andati a Samira lui. Ciao, l'altra volta c'avevo direttamente già in busta io la roba mia. Quando ho visto che non aprivo l'ascensore, ho preso e ero con mio fratello, ti giuro. Era con Giampiero. Allora adesso come facciamo a aprire? Beh, dice, rimaniamo qui, mangiamo e beviamo, mi ha detto. Dice, ho chiamato il numero verde e siccome ce l'abbiamo vicino a casa, a fianco alla pizzeria, il mountentore, quindi a un certo punto ho aspettato, è arrivato dopo un'ora e mezza, è arrivato la verità. Poi avete aspettato, no, noi sta tranquillo, noi abbiamo già pranzato, gli ho detto. Ma che cosa ci avete, Raccone o Sanna ci avete ancora? Sanna, quello che c'è di fronte alla, come si dice, al conto. Sì, no, ma già sono bravi, no, Sanna, sono dei professionisti anche Raccone. Già sono bravi, sicuramente c'è qualche magagna sulla scheda e si blocca la porta, capite? Sì, magagna sulla scheda, ha avuto lo stesso effetto, questione di pressione di olio, hai capito? Evidentemente l'olio col freddo che c'era si è congelato e quindi a un certo punto non è più liquido, hai capito? E quindi tende a, se l'ascensore non lo usi ogni 5-10 minuti, l'olio non scorre e quindi automaticamente diventa denso, capito? Sì. Già li ho visti fare le manutenzioni, li seguivo spesso, dai. Va bene Gianni, dai, e Antonello io vi saluto, vado a vedere il mio TG e poi a Papai, che sono già le 8:05. Ci sentiamo domani ragazzi, buona serata a tutti, ciao. Ciao Claudio. Niente, dai. Mi sa che me ne vado anche io, così mi vado a telegiornale anch'io e poi vi guardo un po' i riscutti, dai, mentre mangio. Ah bene, no, non c'è problema. Sono qua io, cioè vabbè. Peccato che mi sono chiuso io. Se mi fossi chiuso io con la birra, sei stato bene. Birra, pizza oppure fai. E invece si è chiuso mio nipote, sono dovuto scendere giù immediatamente e cercare di sbloccarlo. Da lì ho dovuto aspettare un pochettino, farlo scendere giù, tanto sono già la plastica, come funziona. A un certo punto, perché l'altra volta ha fregato anche a me. Sono rimasto bloccato tra secondo e terzo piano, allora sono dovuto scendere giù, ho chiamato a mia sorella, a Giovanna, e Giovanna ha detto guarda che è così, e non ha fatto altro che premere meno uno, ha detto ma adesso gira, ha detto saremo assieme, gli ha detto si sarà sbloccato, le palle, siamo rimasti tutti e due chiusi, tra l'altro e primo piano, quindi insomma è, ormai insomma è come funziona l'ascensore, quindi a un certo punto da lì sono tranquillo, per quello mi porto la scorta al limite, nel caso, vabbè, quello era appena agosto, ma adesso siamo in inverno, quindi a un certo punto la persona ci sono, ma in agosto come cazzo fai? È un casino. Va bene, dai, ti saluto, che io vado, dai, che devo preparare anche da mangiare. Ciao, alla prossima, ciao. E io, altrettanto, ciao, ci sentiamo, là. Buonanotte, buon tutto.